Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1863, oltreoceano, tra guerra civile ed emancipazione. Nella comunità italiana che vive qua negli Stati Uniti, mezzo milione, secondo il censimento del 61, si è appena spenta l'eco della battaglia di Winchester. In questo nuovo mondo lacerato da una guerra civile, hanno avuto modo di combattere l'uno contro l'altro anche gli italiani. Nel maggio dell'anno scorso, il 39esimo New York Infantry, composto non solo da compatrioti ma anche da ungheresi, svizzeri, francesi, spagnoli e portoghesi, si è scontrato con i confederati del 10° Louisiana, la cui prima compagnia è composta da soli soldati ex borbonici. Non c'è stata storia e gli unionisti sono stati duramente sconfitti, tanto da guadagnarsi il soprannome di vigliacchi di Harper's Ferry, il luogo nel quale sono stati messi in rotta. Eppure, per i confederati, le cose non vanno bene. In settembre le forze del Nord sono riuscite a respingere il tentativo di conquista del Maryland. Nella decisiva battaglia di Antietam, così il presidente Abramo Lincoln ha rotto gli indugi e stilato la prima bozza del proclama di emancipazione, entrato in vigore all'inizio di quest'anno. Vi si prevede la liberazione degli schiavi, un fatto questo che ha destato scalpore negli stati secessionisti che al momento Washington non controlla. In realtà la mossa di Lincoln è astuta, osservano alcuni analisti politici e militari, per una serie di motivi, a partire dal fatto che sposta l'obiettivo della guerra e fa sì che ad ogni avanzata dell'esercito unionista corrisponda una liberazione di schiavi, poi perché toglie benzina all'esercito confederato, per il quale i neri rappresentano una risorsa di supporto fondamentale. Infine, perché l'opinione pubblica internazionale, quella britannica soprattutto, volge sempre più a favore del presidente e del nord degli Stati Uniti. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.